Buongiorno. Cosa ti è successo? Cercavo lavoro da parecchio tempo, l'ho trovato in una lavanderia. In questa lavanderia dicevano che volevano una commessa, invece poi mi misero a stirare. E il La misero a proprietario stirare. a stirare, Quindi sì. una mansione più specializzata, ecco. Sì, più specializzata e un po' più che non rispecchiava il mio desiderio, Poi insomma. l'avranno pagata di più, una stiratrice vale più di una Non commessa. hanno avuto manco tempo perché al terzo giorno il proprietario che stava lì, che faceva l'azienda con la moglie, era anche la moglie, il terzo giorno andando dietro per vedere i panni, cose, mi fece capire, toccandomi il culo e il seno mentre camminavamo vicini così, mi fece capire che se volevo fare la commessa Doveva accettare il dovevo palpamento. accettare questi suoi palpamenti. Ma Io così mi lo disse sono. proprio, guarda, se vuoi lavorare io ti devo mettere le mani addosso. Sì, però era tutto implicitamente, non era. Perché poi dopo mi portava dietro la cassa, mi faceva vedere come aggiustare, mentre faceva vedere toccava. Con la Cioè, la moglie metteva dall'altra. a caricare le lavatrici nell'atto in cui lei era prona a caricare la lavatrice, si approfittava delle sue terghe. Ecco, questo era il No, sintomo. lì mi trattava male. Quando invece mi faceva vedere come si mettevano le cose a posto, le cose già pronte per darle ai clienti che le venivano a ritirare, lui mi palpava. E andando di qua da un capo all'altro del negozio palpava. Io ogni volta che mi palpava mi irrigidivo, gli dicevo oh. Poi mettevo la mano sul seno e io gliela levavo. Terzo giorno io me ne vado. Io ho E deciso. la moglie sta. Questo stavo per dire. Io dico ok, io me ne vado pomeriggio. E gli ho detto alla moglie, signora, suo marito mi tocca il culo e le tette. La moglie si gira, lo guarda e gli fa, ancora fai queste cose? Io l'ho guardato, signora, complimenti.